guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Volevo sapere, per quanto riguarda il campionato del mondo di ciclismo, lei cosa ne pensa? Io sono un tifoso del ciclismo. Io penso che era meglio non farli, perché sono un tifoso del ciclismo, perché il ciclismo è morto per me. Per me è morto il ciclismo. Per me il ciclismo con questi fatti è morto, non si può. Non si può fare una corsa dopo 3 giorni e drogato, un'altra corsa dopo 4 giorni e drogato, è una cosa ridicola, è un tirare in giro la gente. Per me, io non vado neanche a vederli, non voglio sentir più parlare neanche di ciclismo. Ma per lei... me è il funerale del ciclismo, non è il campionato mondiale del ciclismo, per me è funerale. Io sono convinto che il ciclismo dovrebbe partire ancora dalla Francia. Il ciclismo deve ripartire dalla Francia, no? Con gare, con un controllo severissimo prima, durante e dopo, per dare credibilità. Devono ridare fiducia alla gente. La gente si sente tirata, almeno io mi sento tirato in giro a sentire queste cose. Vado a vedere uno, non so se ha vinto perché è più drogato degli altri o perché è più forte degli altri. È ridicolo. Buonasera e benvenuti all'ascolto. Chi vi parla è Roberto Galullo, questa è Guardie o Ladri, la trasmissione che ogni sabato affronta temi di legalità e sicurezza. Quella che avete ascoltato era una parte di un'intervista della giornalista Chiara Milani della emittente Rete 55 di Varese a Don Luigi Del Torchio, un sacerdote 68enne attualmente indagato a piede libero per aver diffuso volantini anonimi su cui si minacciava di disseminare di chiodi il percorso del mondiale di ciclismo e avrebbe persino voluto gettare della vernice sui corridori e tappezzare il percorso di scritte «Siete tutti drogati». Cari radioascoltatori, avete capito che oggi parleremo in questa puntata di doping e ciclismo. Domani si concluderà la settimana del mondiale tenuto quest'anno in Italia nel Varesotto con la corsa in linea e abbiamo avuto purtroppo, ahimè, anche quest'anno un anno tappezzato da scandali che hanno coinvolto il ciclismo e siamo qui per cercare di capire chi è a guardia di certi valori e certi principi e chi invece a guardia degli stessi proprio non c'è e quindi si pone dalla parte dell'illegalità. Ed è per questo che io do il buonasera e il benvenuto in trasmissione a Sandro Donati, già dirigente del CONI, attualmente fa parte della Commissione Nazionale di Vigilanza sul Doping, consule dell'Agenzia Mondiale Antidoping e ho anche, come dire, particolarmente il piacere di dire che fa parte anche dell'ufficio di presidenza dell'Associazione Libera, l'associazione che si batte contro tutte le mafie. Buonasera Donati. Buonasera a tutti. Allora Donati, lei è d'accordo con le affermazioni molto dure di questo sacerdote del Torchio che dice questo qui in realtà è il funerale del ciclismo? Guardi, io dico sinceramente che anche quella del sacerdote mi sembra una semplificazione, cioè qui ci sono anche masse di spettatori che sono in parte sì sdegnati, come il caso del suo sacerdote, magari anche in delle maniere così un po' eccessive, e altra parte sono assolutamente d'accordo con questo andazzo, oppure sono indifferenti. Ecco, bisogna dire che lo sport è un fenomeno che attiene alle emozioni, quindi affascina per questa ragione, e quindi tutti i riferimenti poi all'etica sono piuttosto, come dire, piuttosto teorici. Quando ci sono in campo le emozioni è evidente che la gente è portata ad aspettarsi queste emozioni e ad accettare. Ecco, poi, Donati, però mi permetta di dire che chi è dall'altra parte è dalla parte dell'illegalità, perché comunque il doping è illegale, punto. Si vede... E senz'altro, lei non ha proprio minimamente tolto, però io le voglio dire che dopo tanti esperienze di lotta a questo problema. Io ho capito che queste illegalità sono possibili perché c'è una larga e diffusa accettazione. Le faccio un esempio. Ha assolutamente ragione su questo, basti guardare cosa fanno i nostri ragazzi in palestra a 12-13 anni, insomma. Esattamente, guardi, le dico adesso senza rivelare nulla di particolarmente delicato, che gli stessi controlli antidoping che la Commissione Nazionale di Vigilanza fa sul mondo amatoriale rilevano una quantità impressionante di casi di positività. Quindi questo voglio dire che le persone qualunque, appunto i pratici amatoriali, non sono differenti, anzi forse sono anche un po' peggio. Su questo sono assolutamente d'accordo. Ecco, ma lei domani vedrà questa corsa in linea, ma la vedrà con quali occhi? Cioè, credendo che quello che arriva prima effettivamente è il più forte di tutti, oppure anche lei avrà il sospetto del prete, avrà il sospetto di tanti, avrà il sospetto che, parliamoci chiaro, o anche io personalmente, perché non posso credere che uno sport come il ciclismo, fatto di sforzi oltre che di passione, possa essere condotto per 12 mesi senza assumere sostanze dopanti. Almeno questo è il mio pensiero, Donati. Ma guardi, io da allenatore ho qualcosa di più di sospetti, io ho delle certezze. Certo. Se lo guardo più per vedere altri aspetti di tipo tattico o spettacolare, o comunque per capire, diciamo, le tendenze. Ecco, ma certamente proprio se non ho altro da fare, altrimenti me ne guardo bene. Ecco, questo già la dice lunga, secondo me, proprio su quello che è ormai lo stato di diffusione di illegalità nel nostro sport. Però adesso veniamo ad un discorso, diciamo così, ancora una volta generalista, magari tagliato con l'accetta, però per cercare di capire come la gente onesta può difendersi e come chi non ci vuole stare a vedere un dopato che vince possa difendersi. Allora le chiedo, che cosa sta facendo il Parlamento italiano, cosa sta facendo il CONI, cioè come ci stiamo muovendo come paese o come comunità europea per cercare di fare in modo che finalmente chi vince in una vasca, chi vince in una corsa in linea, chi entra in un campo sia una persona effettivamente pulita e tutti possano sapere che è pulito. Ma guardi, non stanno facendo né l'uno né l'altro. Ah, fantastico. Il CONI porta avanti il proprio progetto di conquista di medaglie come gli altri comitati olimpici degli altri paesi, inutile illudersi. Poi è chiaro, ci sono tante enunciazioni di principio, sembrano tutti quanti perfettamente, diciamo, in linea con le regole, ma poi non è così. Lo Stato direi che dedica a questo problema una scarsissima attenzione e inoltre tende a confondere il problema del doping solo con quello degli atleti di alto livello, mentre purtroppo il fenomeno si è diffuso a moltissimi altri cittadini. Ecco, direi che intanto lo Stato dovrebbe fare la sua parte per combattere questo fenomeno come rischio per la salute pubblica. Non vedo un'azione neanche da parte dello Stato. Benissimo, allora io direi a questo punto fermiamoci un attimo per sentire una scheda che ci possa raccontare complessivamente il mondo del doping e dell'antidoping oggi in Italia. 80 casi di positività. È il bilancio dei controlli antidoping effettuati dai comitati olimpici nazionali alla vigilia dei giochi di Pechino. Appena 10 casi, compresi 4 cavalli, su un totale di oltre 4.000 controlli al termine delle Olimpiadi. Prima e dopo, insomma, numeri irrisibili, tanto che più di un commentatore si è chiesto se la lotta alle sostanze dopanti fosse seria o fosse una burla. In Italia il mercato conta su 500.000 di clienti, con un giro d'affari, secondo Legambiente, di almeno 800 milioni di euro e tassi di crescita del 25% annuo. Secondo un'indagine condotta nel 2007 dall'Istituto Superiore di Sanità, il 35,7% di giovani sportivi, su un campione di 5.000 ragazzi in attività sportiva, la maggior parte calciatori fra i 14 e i 17 anni, ricorrerebbe a un non meglio specificato aiutino se avesse la certezza del risultato. In testa agli aiutini più richiesti c'è l'eritropoietina, la famosa EPO dei ciclisti, sport nel quale la fatica è tutto, i farmaci ad alto potenziale diuretico o anfetaminico e gli ormoni della crescita. Una curiosità, in Italia il 60% dei prodotti dopanti è rubato a strutture ospedaliere. 600 fiale di eritropoietina da 4.000 unità, per fare un esempio, costano 45.000 euro. I controlli antidoping sono pochi perché i fondi scarseggiano e sono per lo più destinati alle categorie superiori. Nel 2007 i controlli nei confronti di sportivi non professionisti sono stati in Italia solo 1.500. E nel professionismo, che si appoggia sul CONI, che vanta laboratori tra i migliori al mondo, le cose vanno ancora peggio. Ecco Donato, abbiamo ascoltato questa scheda che ci ha un po' riassunto. Prima di lasciarla, e colgo l'occasione per ringraziarla, una domanda con una sua battuta conclusiva. Le Olimpiadi sono state una cosa seria o sono state una burla? Beh, sono state un serio business e poi il resto è spettacolo. Ed è chiaro che quel numero bassissimo di positività si spiega perfettamente, perché gli atleti vanno controllati nei mesi e nelle settimane precedenti ai giochi con i controlli a sorpresa, perché nessun atleta, se non uno sprovveduto, va ad assumere una sostanza che si ritrova nelle urine immediatamente prima della gara. Certo. Quindi, come dire, se noi ci facciamo spiegare lo stato del doping da coloro che sono interessati alla gestione del business, vuol dire veramente che vogliamo tenere gli occhi chiusi. Assolutamente, vuol dire che non abbiamo proprio capito nulla. Grazie Donati per il suo intervento, le auguro buon lavoro e mi raccomando, continui pure la sua lotta, noi siamo al suo fianco. Stiamo parlando di doping nello sport, e più precisamente di doping nel ciclismo. Perché? Perché domani ci sarà la conclusione del mondiale che si sta svolgendo in Italia con la corsa in linea. Alcuni giorni fa la stampa di Torino, per la precisione martedì 23 settembre, a pagina 50, è uscita con un titolo shock che non è stato ripreso da alcun quotidiano, a parte quelli sportivi, ed ignorato bellamente dalla stampa nazionale. Il titolo era: tranquilli, il mondiale lo vincerà un dopato. I big hanno lasciato la Vuelta per fare la cura a casa e, se sono stati intelligenti, supereranno i controlli. Chi ha detto queste frasi? Ivano Fanini, 57 anni, presidente del team ciclistico Amore Vita McDonald's, da una vita nel ciclismo, crede nel ciclismo, nello sport, nei valori dello sport, ed è per questo che ha deciso di mettersi a capo di una squadra. Buonasera Fanini. Buonasera. Allora, lei ribadisce la correttezza di quel titolo? È convinto che domani il mondiale lo vincerà un dopato? Ma io non è che... quando faccio le mie dichiarazioni, se qualsiasi persona, qualsiasi giornalista che mi chiama e mi chiede le cose, non sono uno che passa tanti giri di parole. Certo. Pertanto, secondo me, una corsa di quasi 300 chilometri a livelli di medie troppo esagerate, un percorso durissimo, poi col sistema attuale del ciclismo degli ultimi anni, non è certo che se in passato, secondo me, ho sempre detto che non, anche quando non vengano trovati positivi i corridori, secondo me su ogni vittoria del passato ci sarebbe un grosso punto interrogativo, o sarebbe da levarle tutte addirittura in qualsiasi sport. Ecco. Col mondo che è negli ultimi 15-20 anni, non vedo come faccio a dire che il campione del mondo di Varese e tutti quelli che vanno sul podio e quelli che arrivano dietro siano puliti. Ecco, sa cosa ha sorpreso a me? Che il giorno dopo la stampa ha giustamente sentito il presidente della Feder Ciclismo, Di Rocco, e Di Rocco se ne è uscito con un'affermazione che è stata ancora una volta ben sintetizzata dal giornale, il quale ha detto: Fanini porti le prove in procura, nessuno vuol nascondere nulla, ma le voci non bastano. Allora, mi ricordo un po' di anni fa, quando sotto Tangentopoli si diceva: no, noi politici siamo tutti quanti puliti, se qualcuno vuole dimostrare il contrario ci porti in tribunale. E poi però accadde effettivamente e molte teste dei politici furono tagliate. Allora, la convince questa replica di Rocco, che dice: Fanini, lei è così bravo, benissimo, perché non le denuncia in tribunale le cose? Io le mie denunce in tribunale, in procura, voglio dire, sono stato uno dei primi a farle, non ho mai avuto paura quando di dire le cose, fare le mie denunce, sono noto per questo, no? È logica che quando sono denunce da farle in tribunale, perché c'hai un tanto di prove, le fai. Quando non è che questi corridori oggi come oggi, io sono stato definito il nemico degli imbroglioni dalla stampa, no? È logica che se sono imbroglioni sono anche furbi, no? Certo. Sono mica imbecilli i corridori che vincano le corse. Assolutamente. Per cui non è che si fanno trovare con facilità. Allora, io le vorrei chiedere... Non ci riescano i controlli del doping, certo. Se si fanno peccare da me. Allora, le vorrei chiedere questo... È giusto, come dire, fare questo tipo di semplificazione? La sua squadra vale a dire l'amore vita, McDonald's uguale ciclismo pulito. Cioè lei è sicuro che al suo interno non ci sia nessun corridore, come dire, sporco, tra virgolette, quindi dopato. E le chiedo, in un ciclismo che è così dopato, perché un corridore dovrebbe venire nel suo team? Come potrebbe emergere una massa di drogati? Una persona che invece, entrando nel suo team, accetta di correre lealmente in maniera pulita. Allora, intanto i corridori che accettano di correre in modo realmente pulito sono solo i giovani che prendo, e io sono noto per aver scoperto tanti campioni, no? Assolutamente, ricordiamo Bartoli, Tafi, Cipollini, tanto per dire tre nomi. Voglio dire, e tutti gli anni ho sempre scoperto, e questi è facile lavorarci per farli correre puliti. Il resto, quelli invece che hanno passati burrascosi anche di doping, oppure che sono caduti anche in depressione e poi magari hanno fatto anche uso di cocaina, che io sono noto, l'ho presi tanti in squadra, voglio dire, c'ho ancora qualcuno, voglio dire, non è certo che posso mettere le mani sul fuoco su questa gente. Assolutamente. Cerco di aiutarli per vedere di venirne fuori, ecco, perché la maggior parte dei corridori, quando finiscano che poi smettano di correre, e che non sanno far niente nella vita, e magari non hanno una lira perché se le sono mangiate tutte a comprarsi le medicine. Certo, ecco, un'ultima domanda prima di passare ad un altro allenatore di talenti, ed è questa qui: come risponde a chi la critica anche sotto questo altro punto di vista? E cito sempre Di Rocco, dice: bravo Fanini, parla bene, intanto la sua squadra però l'ha tesserata in Polonia in maniera tale che non può incorrere nelle mire, negli strali, comunque nei provvedimenti della Federciclismo. Ora, io sono stato il primo 12 o 13 anni fa a filiare la squadra all'estero, solo perché quando io denunciai i fatti del Giro d'Italia del 1996, il signor segretario Angelo Laverda della Lega, che è tuttora lì a comandare, lui fece la famosa soffiata al Giro d'Italia per far sparire tutte le medicine al gruppo della carovana del ciclismo che sarebbe arrivato dalla Grecia a Brindisi, che erano in tempi non sospetti, l'avrebbero beccati tutte le squadre, compreso la mia, pieni di medicinali, e quindi sarebbe stato la fortuna del ciclismo, perché perché sarebbero caduti tutti per poi rialzarsi. Se in asse di Firenze prendevano, bloccavano la nave, se non ci fosse stata la spiata di Angelo Laverda e di Castellano, che era il direttore del Giro da allora, a quel punto io ero affiliato alla Federazione Italiana. Benissimo. Da quel momento in poi io non potevo parlare bocca, che mi squalificavano. Benissimo, allora io la ringrazio per la forza con cui ha denunciato queste cose. Rimanga con noi in linea, ma io intanto do il buonasera a Lucio Nunez. Buonasera Nunez. Buonasera. Allora, Nunez è un allenatore di talenti, è uno schermidore famoso, famosissimo nell'ambiente, e al suo attivo ha anche atleti campioni del mondo. Però alcuni mesi fa, segnatamente il 4 e il 5 giugno del 2008, io ho conservato la pagina della Nazione di Firenze, è uscito con delle dichiarazioni che poi sono state ben spiegate dallo stesso allenatore su questo giornale fiorentino. Ha detto: sono favorevole al doping. Grandissimo, come dire, clamore. Il giorno dopo si è tornati sulla vicenda. Nunez ha poi meglio specificato il suo pensiero. Nunez, allora, quella frase shock, vuole rispiegarla ai nostri radioascoltatori? Cosa intendeva dire? Sì, intanto io non l'ho mai pronunciata, per puntualizzare, insomma, era questa giornalata, questa pagina immonda viene fuori non so per quale motivo, e non abbiamo certamente il tempo per trovare il motivo, per dare una spiegazione, ma è venuto fuori, cioè, di fatti, è probabile che un discorso fatto tra privati con qualche frase che può essere, a mio avviso, attinente al fatto che esiste questo problema, che è veramente gravissimo, e certo in talune discipline è molto evidente. Noi della scherma siamo più fortunati, perché io sono sincero a questo riguardo, è difficile avere la gestione dal punto di vista chimico per chi ha i tempi, impegno fisico che non hanno una codificazione. Quindi lei nega di aver detto questa cosa e nega ovviamente di essere un promotore del doping nella scherma, nonostante abbiamo poi visto che prima delle Olimpiadi, insomma, uno schermidore è stato escluso dalla competizione proprio per questo motivo. Innanzitutto nego assolutamente, ma chi mi conosce sa, io faccio l'allenatore da oltre 40 anni, e sa che ho clienti in attesa per venire nella scuola dove continuo a fare il maestro di scherma, insomma, per il mio comportamento e per tutto quello che ho fatto nella vita, quindi, e poi l'impegno civile che ho in questo ambito, ma l'argomento è troppo lungo, certo. La lotta contro la droga. Per quello che riguarda invece lo schermitore a cui fa riferimento, è uno della mia regione, è un grande atleta e certamente poteva essere la ipotesi della medaglia d'oro nel fioretto individuale. Io conosco questo ragazzo, mi risulterebbe, uso il condizionale, che il tribunale di Parigi ha annullato questa, diciamo, questa prima condanna, insomma. Non ho il dato certo nei confronti di questo schermitore, che però è rimasto fuori. Nunez, la ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio Fanini, in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Faggini e Roberto Galullo. Nell'augurarvi una buona serata, vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri.